24. La storia. Comandante Lorenzo Daddario, capo della brigata paracadutisti della Folgore, cosa significa la battaglia di El Alamein per voi oggi? Noi ricordiamo la battaglia di El Alamein perché in questo episodio molto cruento della Seconda Guerra Mondiale i soldati italiani, segnatamente ai paracadutisti, ma tutti i soldati e le divisioni che li hanno combattuti, sono comportati in maniera molto valorosa, e quindi in questo, nel ricordo delle loro gesta, noi come loro eredi ci identifichiamo. È ad El Alamein, a 100 km da Alessandria, che si combatte una delle battaglie più importanti del XX secolo, un punto importante di svolta per le sorti della Seconda Guerra Mondiale. È il 23 ottobre del 42 e le truppe britanniche iniziano l'attacco ad El Alamein contro l'armata italo-tedesca. L'attacco inizia alle 9.40 della sera. Da una parte i soldati dell'ottava armata di Montgomery, dall'altra le truppe dell'Africa Corps di Rommel. Il destino degli italo-tedeschi è già scritto nei numeri. Uomini, mezzi, rifornimenti, carburante, tutto gioca a favore degli inglesi. Il 4 novembre la battaglia è finita. I morti danno la dimensione della tragedia. 9.000 morti tedeschi, 13.500 inglesi, 17.000 italiani. Gli ultimi a cedere sono proprio i paracadutisti italiani della Folgore, un coraggio disperato ed eroico che merita l'onore del nemico e la memoria di chi sopravvive. El Alamein, una piccola stazione ferroviaria nel deserto egiziano apparentemente di scarso significato, riveste in realtà un ruolo strategico di primaria importanza. Sfondare a El Alamein, presidiata dagli inglesi, significa per le potenze dell'asse conquistare l'Egitto, sottraendolo al dominio britannico, e aprirsi così la strada verso i paesi petroliferi del Medio Oriente. Situata sul Golfo degli Arabi, a circa 110 km da Alessandria, El Alamein, che in arabo vuol dire le due bandiere, è soltanto un nome sulla carta geografica. Nessuno può immaginare che uomini in armi sotto una dozzina di bandiere si daranno battaglia in quel posto desolato. Gli italo-tedeschi, decisi a raggiungere Alessandria, il Cairo e Suez. Le truppe dell'impero britannico, altrettanto decise a sbarrare loro il passo. Dal 30 giugno al 4 novembre 1942, ad El Alamein vennero combattute tre battaglie, che si potrebbero definire tre atti della stessa battaglia. Il terzo atto, o la terza battaglia, quella che tutti conoscono come la battaglia di El Alamein, si svolse dal 23 ottobre al 4 novembre 1942. Il campo di battaglia era una striscia di sabbia larga circa 60 km, tra la depressione di Al-Qattar a sud e il Mediterraneo a nord. Sino a quel momento, gli inglesi non erano riusciti ad ottenere una vittoria decisiva su Rommel, e quest'ultimo, da parte sua, non era riuscito, nonostante i successi tattici, a conseguire una vittoria decisiva sulle forze imperiali britanniche. Era lo storico James Baker. Rommel, soprannominato la volpe del deserto per la sua astuzia e la sua inafferrabilità, tipica di una volpe, conosce il terreno palmo a palmo. Dirige le operazioni stando direttamente sul campo di battaglia insieme ai suoi soldati. Insieme a questa sua attitudine viene criticato dagli stessi tedeschi, che ritengono il suo comportamento non confacente ad un ufficiale del suo rango. Alle doti di generale improvvisatore di Rommel, Montgomery contrappone la freddezza, il calcolo, l'organizzazione. Sa che la vittoria non dipende solo dalla capacità di manovra sulla linea del fronte, ma anche da rifornimenti, dal meticoloso lavoro di preparazione fatto nelle retrovie e dal controllo complessivo della macchina bellica. Prende l'iniziativa quando è ragionevolmente sicuro di avere in mano le carte per vincere. È sempre calmo, niente lo disturba. Il pensiero che possa perdere la battaglia non lo sfiora nemmeno per un istante. Sentiamo ancora lo storico James Baker. Rommel era imbattibile sul campo di battaglia, un autentico genio della tattica. Montgomery invece eccelleva in termini di strategia. La differenza tra i due generali si può evincere anche dai filmati e dalle foto d'archivio. Rommel amava essere ripreso sulla sua jeep mentre percorreva il deserto per controllare quanto avveniva sul campo di battaglia e impartiva personalmente l'ordine di attaccare in questa o quella direzione. A Montgomery questo non piaceva, non lo faceva. Una sola volta si lasciò convincere a farsi riprendere sul suo carro di comando, ma lo fece solo per ragioni di propaganda. Di solito dirigeva le operazioni dal suo quartier generale. Rommel dispone di 12 divisioni, 4 delle quali corazzate, le tedesche 15esima e 21esima Panzer e le italiane Ariete e Littorio. Montgomery di 10 divisioni, di cui 3 corazzate. Sulla carta un rapporto di forze quasi equivalente. In realtà i soldati dell'asse pronti al combattimento non arrivano a 100.000, contro forze quasi doppie del nemico. Anche sul piano degli armamenti la superiorità degli inglesi è nettissima. Montgomery può contare su circa 1.200 carri, dei quali più di 500 sono i poderosi e temibili Sherman e Grant, di costruzione americana. Le truppe dell'asse possono metterne in campo poco più di 500, di cui la metà carri medi e leggeri. Ai numerosi e potenti pezzi controcarro inglesi, ammontanti a circa 1.500 bocche da fuoco, l'armata italo-tedesca può contrapporre appena 500 pezzi, molti dei quali di limitata potenza. Gli altri, tra cui il 47-32 italiano, possono ben poco contro le massicce corazze dei carri nemici. Non si presenta migliore il rapporto delle forze dell'aria. Quasi 1.000 aerei inglesi contro i circa 350 dell'asse, che difetta oltretutto di carburante e munizioni. In complesso, il rapporto di forze in uomini e soprattutto mezzi, dove si raggiunge e in alcuni momenti si supera il livello di 3-1, è nettamente favorevole all'ottava armata britannica. Da questo si può facilmente comprendere quanto sia compromessa la situazione delle truppe dell'asse. Ed è con questo potenziale che i due schieramenti, da un lato quello inglese guidato da Montgomery, dall'altro quello italo-tedesco con a capo Rommel, si apprestano ad affrontare la battaglia. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la battaglia di El Alamein, una delle più sanguinose tappe della Seconda Guerra Mondiale, che vide contrapporsi due eserciti, quello inglese e quello dell'asse italo-tedesco. Ma già in partenza il rapporto di forze in uomini e mezzi è nettamente favorevole all'ottava armata britannica, una situazione chiara a tutti. Il primo ad esserne consapevole è lo stesso Rommel, che, rientrato in Germania per curarsi di alcuni disturbi determinati dal forte stress accumulato nei lunghi mesi trascorsi in prima linea nel deserto africano, coglie l'occasione per chiedere a Hitler rinforzi. Dal Führer riceve solo vaghe promesse. Prima di partire, Rommel ha predisposto sul campo le sue forze. Contrariamente a quanto aveva fatto sino a quel momento, non schiera vicine tra loro le sue due migliori divisioni corazzate, la 15esima e la 21esima Panzer. Preferisce, anche per una scarsa fiducia nelle truppe italiane e soprattutto nei loro armamenti, schierare a nord la 15esima Panzer insieme all'italiana Littorio e a sud, verso la depressione di Alcattara, la 21esima Panzer accanto all'Ariete. In questa depressione schiera anche la divisione Folgore, che si è già distinta per combattività e ardimento nelle battaglie precedenti e che darà una straordinaria prova di sé sino alla fine. Quelli della Folgore furono inviati a El Alamein come fanteria d'appoggio. Furono schierati sul fianco destro, che Rommel riteneva il più vulnerabile. Le truppe britanniche attaccarono invece sul fianco sinistro e i soldati della Folgore restarono così intrappolati nella depressione di Alcattara. È Era lo storico James Baker. I soldati della Folgore sono dei volontari paracadutisti che verranno ricordati per sempre come i ragazzi della Folgore. La loro avventura è cominciata a Tarquinia, vicino Roma, dove hanno superato una selezione durissima. Sentiamo ancora lo storico James Baker e l'artigliere della divisione Folgore, Renato Migliavacca. Era una formazione d'élite. Era stata addestrata ispirandosi ai metodi dei paracadutisti tedeschi per essere lanciata su Malta. Ma poi i piani cambiarono e questi uomini non furono mai impiegati nei compiti per cui erano stati addestrati. Ed era in preparazione il lancio su Malta che dovevamo fare in concomitanza con l'aiuto di paracadutisti tedeschi. Ci addestravamo, faceva un caldo boia ed era un addestramento durissimo. Stavamo tutti in attesa di questo lancio su Malta. Intanto dall'Africa arrivavano notizie di grandi successi, perché era in corso l'avanzata da El Agheila, quindi dalla Libia, da metà della Libia, verso l'Egitto. E noi quindi dicevamo, ma qui arrivano notizie di continue vittorie, cosa aspettiamo a lanciarci su Malta? E invece poi improvvisamente è arrivato l'ordine di praticamente di mobilitazione, invece di mandarci a Malta ci hanno mandato in Africa. Questo inaspettato cambio di destinazione provoca delusione in quei ragazzi. Tra l'altro il nome Cacciatori d'Africa dato alla loro divisione non è affatto gradito. Quando noi siamo partiti la denominazione della divisione era Cacciatori d'Africa, cosa che a noi non è piaciuta per niente, ci faceva ridere, ci sembrava ridicolo, anche se i tedeschi usano e i francesi anche chasseur. A noi che non era nelle nostre tradizioni faceva ridere, tanto è vero che un mio collega ha detto, ci pensate ragazzi, 5.000 doppiette nel deserto, cacciatori, no? Invece Bebè che ha suggerito il nome Folgore, e questo nome è stato accettato dal comando supremo a Roma, e per cui la divisione cacciatori si è trasformata in divisione Folgore, nome che è piaciuto subito a tutti. Per i soldati la vita non è facile nel deserto. Il deserto è un luogo adatto solo per la guerra. Centinaia e centinaia di chilometri quadrati fatti solo di sabbia e pietrisco. Per orientarsi serve una bussola, come a un marinaio nell'oceano. Al caldo torrido del giorno, che provoca fenomeni di allucinazione, segue il freddo pungente della notte. Alla tensione della guerra si aggiungono la sete e le privazioni di ogni genere. E poi gli scorpioni del deserto e le mosche che si attaccano alle carni dei soldati con la tenacia di un mastino. Quando il vento solleva tempeste di sabbia, la vita diventa insopportabile. L'attacco britannico coglie di sorpresa le truppe italo-tedesche che non rispondono immediatamente al fuoco. Hanno attaccato di notte, su un terreno che di giorno sarebbe stato spazzato dall'artiglieria e dalle mitragliatrici, perché il nemico, che a quei tempi non aveva alcun tipo di strumento per la visione notturna, non li avrebbe visti fino al momento in cui le forze imperiali britanniche sarebbero state così vicine da costringerlo a difendersi solo con le bombe a mano o con i fucili. Ci scatenò l'inferno, vedemmo il cielo illuminarsi tutto di fronte a noi e una salva enorme di proiettili passarci sulla testa. Fu spaventoso. La notte veniva a tratti illuminata dai lampi degli spari e delle esplosioni. Sul fronte tedesco e su quello italiano, quella notte ci fu tregua. Non fu presa nessuna contromisura di difesa. Eravamo terribilmente angosciati, perché ora avevamo capito in quale inferno ci avevano mandato. È stata una valanga di fuoco. Im Stillen haben wir den englischen Angriff erwartet. Abbiamo aspettato l'attacco degli inglesi. Etwas in silenzio. Kameraden bemängelt, auch mit den. Noi ci chiedevamo come mai. Come mai non vi erano reazioni di difesa? Oder mit den Leutnant Winneken. Perché gli stormi di bombardieri inglesi potevano volare tranquillamente sopra le nostre teste sganciando il loro carico di bombe? Dove erano finiti i nostri Stukas? Che nelle precedenti battaglie di El Alamein erano stati impiegati in massa? A ordinare finalmente il contrattacco è il generale tedesco Stumme, che ha sostituito Rommel, ancora in Germania in convalescenza. Sotto la protezione di un fuoco di sbarramento impressionante, le divisioni di fanteria italo-tedesche riescono a contenere l'attacco. Quando ci hanno attaccato con i carri armati e con le truppe appiedate, allora abbiamo risposto e nei momenti critici, quando sembrava che la situazione evolvesse a nostro sfavore, si passava al contrattacco. Per gli inglesi l'impresa si rivela più difficile del previsto. Il versante italo-tedesco, infatti, è stato disseminato di alcuni milioni di mine. I tedeschi avevano lavorato a lungo per rinforzare le loro posizioni difensive con le mine. Avevano mine tradizionali e telemine usate per distruggere i veicoli. Avevano anche una mina particolarmente cattiva chiamata Mina S. Se ci si sedeva sopra, la mina saltava in aria ed esplodeva a livello della cintola della persona, spargendo schegge in un raggio di circa 10 metri. Era stata appositamente progettata per colpire gli intestini o evirare qualsiasi soldato che si trovasse nel suo raggio d'azione. Essi chiamarono la loro cintura difensiva di campi minati il giardino del diavolo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. La sera del 23 ottobre del 42 si combatte la durissima battaglia di El Alamein. Ma per gli inglesi, quelle forze dell'asse italo-tedesca inferiori sulla carta si stanno mostrando più faticose e ostiche del previsto. Rommel, il generale alla guida di queste forze, aveva disseminato il campo di battaglia di mine, un campo minato che i soldati chiamarono il giardino del diavolo. Il giardino del diavolo, perché erano stati studiati in una forma così strategica e disseminata che il loro scoppio di una mina provocava una tale esplosione di tante mine che era il fuoco come l'inferno. E quindi escludeva proprio, cioè uccideva chiunque si trovava ad una certa distanza, perché l'esplosione era un'esplosione di massa a catena. Rommel aveva piazzato più mine a El Alamein che in qualsiasi altro posto durante la campagna del Nord Africa, e ancora oggi molte si trovano lì. Non sono stati da meno gli alleati, che hanno fortificato El Alamein con tutti i mezzi, compresi i numerosi campi minati, sin dal 1941. Di grande utilità si rivelarono per entrambi gli eserciti i metal detector. Le truppe italiane, non disponendo di metal detector, si ingegnano come possono. Con le mani e quindi col pugnale sondavamo la sabbia, attraverso la sabbia e attraverso la durezza del terreno veniva individuata la mina. Accorto anche di mine, i soldati italiani non si limitano a disattivare quelle inglesi, ma le riutilizzano contro le stesse forze nemiche. E noi non avevamo mine, utilizzavamo sempre quelli inglesi. Generalmente noi avevamo anche le piante dei campi minati inglesi, e sui campi minati inglesi, su queste piante, noi andavamo alla ricerca attraverso un contatto umano e quindi attraverso uno strisciamento sul terreno fatto molto attento e acuto della forma della mina che era sotto la sabbia. Una volta trovata la mina cercavamo il minuscolo accenditore e quindi toglievamo la miccia di accensione e quindi levavamo la mina per trasportarla altrove. Il giorno dopo l'inizio della battaglia, Stumme muore all'improvviso stroncato da un colpo apoplettico. Rommel ritorna immediatamente per riprendere il comando delle operazioni. Il 26 è di nuovo al fronte. Il comandante dell'Africa Corps si rende subito conto che la situazione è gravissima. Nel suo diario annota: la superiorità in mezzi del nemico ci pone in condizione di dover subire la sua iniziativa. Munizioni e carburante scarseggiano paurosamente. Col problema dei rifornimenti, le truppe italo-tedesche hanno dovuto fare i conti sin dall'inizio della campagna d'Africa. Allo sbarramento britannico di El Alamein, con il progressivo allungamento delle linee di rifornimento, il problema si è fatto acutissimo. Le navi che trasportano i rifornimenti per le truppe italo-tedesche devono attraversare il Mediterraneo. E nel cuore del Mediterraneo sorge l'isola di Malta, presidiata dagli inglesi. Malta rappresenta per gli inglesi una carta strategica di primaria importanza. Per le truppe dell'asse è una dolorosa spina nel fianco, di cui agli inizi avevano progettato di liberarsi. Gli inglesi, che sono riusciti a decrittare il codice tedesco denominato Enigma, vengono a conoscenza delle rotte seguite dai convogli navali dell'asse. Possono quindi agevolmente intercettarli e affondarli con tutto il loro carico. Quando Rommel sfondò le linee inglesi e prese Tobruk nel giugno del 42, dopo una vivace discussione, riuscì a convincere Kesselring e l'alto comando italiano che l'attacco a Malta non era più necessario. Inebriato dalla vittoria conseguita, sostenne che se le truppe e i mezzi destinati a Malta fossero stati messi a sua disposizione, egli avrebbe raggiunto Alessandria in breve tempo e avrebbe cacciato gli inglesi dall'Egitto e forse anche da tutto il Medio Oriente. Malta fu quindi lasciata nelle mani degli inglesi e questo si rivelerà un errore fatale. Nei porti di Tripoli, Bengasi e Tobruk arrivano le poche navi dell'asse che riescono a superare lo sbarramento di Malta. I rifornimenti devono poi essere trasportati su automezzi. Mancano ancora centinaia, talvolta migliaia di chilometri prima che arrivino alla loro destinazione finale. Non più del 40% degli approvvigionamenti riesce a giungere al fronte. Tutto è razionato, a cominciare dall'acqua, e quel poco che viene distribuita è spesso imbevibile. Per i soldati esposti al caldo torrido e alla sabbia rovente del deserto africano, è un autentico dramma. L'ottava armata britannica, invece, gode di linee di rifornimento cortissime. Gli approvvigionamenti partono dal porto di Alessandria e dal canale di Suez e il problema dell'acqua è meno avvertito. Pur consapevole della temerarietà dell'impresa, poche ore dopo aver riassunto il comando, Rommel decide rapidamente di giocare il tutto per tutto. Tra il 26 e il 28 ottobre, gli italo-tedeschi sferrano una serie di controffensive che le preponderanti forze inglesi respingono, infliggendo al nemico gravissime perdite che Rommel non ha la possibilità di colmare. In una lettera alla moglie del 1 novembre, Rommel scrive: il nemico ci attacca con indiscutibile superiorità, allontanandoci dalle nostre posizioni. Per noi è la fine. La battaglia è perduta. Le masse nemiche ci sommergono letteralmente. Io ho tentato di salvare alcune unità dell'armata. Mi riuscirà? Di notte mi agito insonne e mi spremo le meningi alla ricerca di una soluzione per salvare dalla catastrofe i miei poveri soldati. Quasi a conferma delle parole di Rommel, alle prime ore del 2 novembre Montgomery lancia l'operazione Supercharge. Nonostante le perdite subite, le truppe dell'asse reagiscono con estrema energia. Dopo una serie ininterrotta di aspri combattimenti, le truppe inglesi, protette da un fuoco di sbarramento di 300 pezzi d'artiglieria, sfondano il sistema di difesa nemico. Anche la depressione di Al-Qattara viene investita da una tempesta di fuoco a cui i ragazzi della Folgore rispondono con grande determinazione e coraggio. Dopo ogni attacco inglese, Rommel vede diminuire uomini, mezzi corazzati e armi. Le munizioni sono prossime all'esaurimento. È un rischio questo che Montgomery non corre. Le fabbriche e i cantieri inglesi, in cui sono impegnati uomini e donne, sfornano senza sosta navi, carri armati, aerei e munizioni. Negli Stati Uniti, l'industria bellica americana comincia intanto a girare a pieno regime. Dalle catene di montaggio dei suoi stabilimenti escono in grandi quantità armi e mezzi sempre più potenti e sofisticati. A contenere l'avanzata delle forze inglesi, il coraggio dei soldati dell'asse, da solo, non basta. Le sorti della battaglia volgono ormai decisamente a favore degli inglesi. Il morale dei soldati italo-tedeschi comincia a manifestare segni di cedimento. Il ricordo di Rudolf Schneider porta ordini di Rommel e di alcuni di quei soldati. Io so cosa significa vedere un compagno giacere per terra col corpo dilaniato. Lo so cosa mi dice quando è morente, con il ventre squarciato, tanto da riuscire a vederne le viscere. Mi prega, mi implora di aiutarlo. Non lo fa con le parole, non può più parlare. Lo fa con lo sguardo, con gli occhi che dicono aiutami, aiutami. E tu sei lì impotente a vedere lui che dopo qualche secondo spira e la sua anima vola nell'aldilà. A quel punto pensi: ma non c'è nient'altro su questa terra. Perché tutto questo accade? È triste vedere i compagni morire, vederseli lì prima scherzare, parlare e poi vederseli lì morire, sventrare, eccetera. È la cosa peggiore che può esistere. In quei momenti sei purtroppo talmente stordito che non hai una percezione tanto lucida. Sai che sono i tuoi commilitoni, ma intanto la guerra continua. In quei momenti non riesci ad occuparti di loro. Le forze italo-tedesche sono allo stremo. La fine della battaglia di El Alamein è ormai vicina. Mix 24. Bentornati a Mix 24. Siamo ai momenti finali della battaglia di El Alamein. Rommel, ormai consapevole che la disfatta è vicina, la sera del 2 novembre chiede al Führer il permesso di ripiegare, ma la risposta di Hitler, condivisa da Mussolini, è perentoria e a Rommel non resta che eseguire gli ordini. Alle sue truppe non può indicare nessun'altra via se non quella che porta alla vittoria o alla morte. L'offensiva britannica si sviluppa con sempre maggiore virulenza su tutta la linea del fronte. Tutti i reparti, sia tedeschi che italiani, pagano un prezzo altissimo. Le corazzate 15esima e 21esima Panzer, fiore all'occhiello di Rommel, vedono dimezzate le loro forze. Per le divisioni corazzate italiane Ariete e Littorio, l'attacco è devastante. Stessa sorte tocca alla divisione motorizzata Trieste. Contro i pesanti corazzati britannici, per i carri italiani, ribattezzati per la perforabilità delle loro corazze scatole di sardine, è la fine. Le nostre divisioni corazzate praticamente erano costituite da scatole di acciaio, da barre di acciaio. Il Marconista, che era a fianco a me, non so se è decapitato o meno, ho visto la testa ciontolare qui, tutto il sangue rosso, eccetera. Poi gli altri tre non l'ho visto, perché io ho cercato di mettermi in salvo, perché pensavo subito all'esplosione del carro, sto proiettile sarebbe esploso dentro e si moriva tutti quanti. Io, temendo l'esplosione del carro, sono salito sulla torretta per uscire. Appena mi hanno visto, il nemico, una raffica del mitragliatrice, mi ha perso un terzo medio della coscia sinistra. Sono caduto, sentito una grande fiamma qui nella coscia, avrò perso i sensi, sono svenuto, non lo so. E loro mi hanno creduto morto e sono andati via. Poi mi sono alzato, ho aperto la portiera del carro e c'erano tre mucchiette di crema, diciamo così, carbonizzate dentro, erano i miei compagni carbonizzati dentro. In una lettera alla moglie, Rommel scrive: con l'Ariete abbiamo perso i nostri più anziani camerati italiani, ai quali, bisogna riconoscerlo, avevamo sempre chiesto di più di quello che erano in grado di fare con il loro cattivo armamento. Rommel non ha ormai né uomini né mezzi per poter pensare di resistere. Gli restano poco più di una divisione e 80 carri armati. Gli inglesi ne hanno ancora 600. Un alto numero di soldati riusciti a scampare alla morte viene fatto prigioniero. Di fronte a questo disastro, Rommel, disattendendo gli ordini di Hitler, decide la ritirata. Comincia il ripiegamento di quello che resta delle armate italo-tedesche. Reparti isolati procedono verso ovest tallonati dall'aviazione nemica. Sono fanti, genieri, artiglieri, carristi. Chi non intende ritirarsi sono i ragazzi della Folgore. Quando abbiamo capito che il colonnello, che essendo il massimo e più elevato in guardia, di grado, rappresentava il comando della divisione, lì sul momento io l'ho guardato pensando: ma è matto? Perché tutto avevamo in testa tranne la possibilità di arrenderci. Anch'essi però saranno costretti alla fine a ripiegare, ma lo faranno a modo loro. Quando è arrivato l'ordine la sera del 2 novembre, l'ordine diceva: autorizzazione a ripiegare sacrificando le armi pesanti, perché non avevamo automezzi. I miei artiglieri mi hanno detto: col cavolo, il pezzo non lo lasciamo qui. Si ritirano trainando a braccia sulla sabbia il cannoncino anticarro da 47 mm. Presto verranno intercettati dagli inglesi, contro i quali spareranno gli ultimi 7 colpi. Il cannoncino è rimasto senza alcun proiettile. Nonostante ciò, i soldati non intendono disfarsene. Se ripieghiamo verso un'ipotetica linea nostra, dove troveremo altri dei nostri e qualche rifornimento. Quindi andiamo verso ovest, continuiamo ad andare verso ovest. Tormentati dalla sete e dalla fame, stremati dalla fatica, si sono disfatti di tutto. Ma il loro 47-32 non può essere lasciato in mano al nemico. Non mangiavamo, non dormivamo. L'acqua ci ha salvato perché il giorno prima è venuto un temporale che ci ha permesso di bere un po' d'acqua. Eravamo stanchi morti, però non volevamo mollare. Io avevo un sottufficiale molto in gamba che aveva fatto la guerra di Spagna, al quale Boffa, il comandante del reggimento, visto che non aveva più colpi e come erano malconciati i suoi uomini, gli ha detto: rompi l'otturatore, leva il percussore, spara sul congegno il puntamento e abbandona il pezzo. E lui si è arrabbiato. Il mio comandante, che mi ordina di stare senza il mio cannone, però l'ordine era l'ordine, lui l'ha eseguito. Rommel, che nel frattempo si è ricreduto sui soldati italiani, nel suo diario annota: le truppe della Folgore sono state alla pari dei nostri migliori soldati. Comandante Lorenzo Daddario, a capo della brigata paracadutisti della Folgore, voi festeggiate questa battaglia come se fosse una vittoria, ma in realtà è stata una sconfitta. Perché? È una domanda che mi ha fatto anche mia moglie quando, ricordo il nome del mio battaglione, Ella Lamein, mi ha chiesto esattamente la stessa cosa. È una cosa comune a molti eserciti, quello di festeggiare o comunque ricordare episodi che in realtà furono sconfitte, ma nella quale il valore dei propri uomini viene in tutta evidenza, e questo è una delle occasioni. Ella Lamein, moltissime delle compagnie dei paracadutisti, ma anche delle altre divisioni che hanno combattuto, sono arrivate stremate, senza arrendersi e soprattutto con una combattività che ancora oggi insegna. Cosa significa essere della Folgore oggi? Ma noi, essere della Folgore è principalmente essere parte di un gruppo molto coeso, composto da ragazzi e ragazze che hanno forte il senso di appartenenza e che io ammiro tantissimo. Sono grato all'esercito italiano di poter esserne il comandante, perché sono dei ragazzi seri, entusiasti, che fanno il loro dovere nel silenzio, e quindi mi ricordano un po' quella che è la parte migliore del nostro paese, che secondo me è anche la parte maggioritaria, un paese di persone in gamba che vengono da belle famiglie, e per me personalmente ne sono il comandante, quindi è un motivo di grande sprone quello di poter essere all'altezza di questi ragazzi meravigliosi. Quando sono entrate le donne? Le donne sono entrate agli inizi del 2000. Anch'esse fanno parte dei paracadutisti, sono molto orgoglioso della loro presenza, anche perché... Quante ne sono, per avere un'idea, quante ne sono? Ne abbiamo circa un 5%. Ma oggi le guerre sono diverse dal passato? Ma sicuramente le esperienze che abbiamo fatto recentemente sono esperienze nelle quali c'è tantissima attenzione ad evitare che cittadini inermi facciano le spese dei conflitti, sicuramente una grande attenzione alla legittimazione da parte delle Nazioni Unite a quello che noi facciamo, quindi sicuramente per quanto riguarda i nostri paesi, i paesi occidentali, la nostra alleanza, la NATO, sono guerre che noi militari intraprendiamo con molta responsabilità, preparandoci non soltanto per poter difendere le nostre unità e per poter compiere la nostra missione a pieno, ma soprattutto anche per risparmiare a popolazioni inermi o comunque persone terze patimenti e diciamo problemi sicuramente che non meritano.